Galati sciocchi, chi mai vi ha incantato? Voi dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo fu presentato crocifisso. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito dalle opere della legge o prestando ascolto al messaggio della fede? Così sciocchi siete. Avendo prima iniziato con lo Spirito, ora finite con la carne. Tante e così grandi cose avete sperimentato invano, seppure poi invano. Colui dunque che vi dona con abbondanza lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi, fa tutto questo perché osservate la legge o perché credete alla predicazione? Così come Abramo credette a Dio, e questo fu per lui un titolo di giustificazione. Sappiate allora che quelli che sono dalla fede, costoro sono figli di Abramo. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per mezzo della fede, annunciò in anticipo ad Abramo: saranno benedette in te tutte le nazioni. Cosicché quelli che si basano sulla fede sono benedetti con Abramo credente. Infatti, quanti si basano sulle opere della legge sono soggetti a una maledizione, poiché è scritto: maledetto chiunque non persevera nel fare tutte le cose scritte nel libro della legge. Che poi nessuno, rimanendo nell'ambito della legge, venga giustificato è manifesto, poiché il giusto vivrà per la fede. La legge però non proviene dalla fede, ma chi farà queste cose vivrà per esse. Cristo ci ha riscattati liberandoci dalla maledizione della legge, divenuto per noi maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso ad un legno. E ciò affinché la benedizione di Abramo arrivasse ai gentili in Cristo, in modo che ricevessimo lo Spirito oggetto di promessa per mezzo della fede. Fratelli, parlo secondo un punto di vista umano. Nessuno invalida o muta con aggiunte un testamento ratificato, anche se è di un uomo. Ora ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le promesse. Non dice «e alle sue discendenze», come se si fosse voluto riferire a molte, ma ad una sola, e alla tua discendenza, che è Cristo. Voglio perciò dire questo. La legge, venuta 430 anni dopo, non annulla il testamento ratificato in precedenza da Dio, rendendo così inoperante la promessa. Ma se l'eredità è legata alla legge, non è più legata ad una promessa. Or Dio fece il suo dono di grazia ad Abramo mediante una promessa. E allora, perché la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché non giungesse il seme oggetto della promessa, promulgata per mezzo di angeli tramite un mediatore. Ma un mediatore non esiste quando si tratta di una persona sola, e Dio è uno solo. La legge allora va contro le promesse di Dio? Non sia mai detto. Se infatti fosse stata data una legge capace di dare la vita, la giustificazione si avrebbe realmente dalla legge. Ma la Scrittura ha chiuso tutte le cose sotto il peccato, affinché la promessa fosse data ai credenti per la fede in Gesù Cristo. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi come prigionieri sotto il dominio della legge, in attesa della fede che sarebbe stata rivelata. Cosicché la legge è divenuta per noi come un pedagogo che ci ha condotti a Cristo, perché fossimo giustificati dalla fede. Sopraggiunta poi la fede, non siamo più sotto il dominio del pedagogo. Tutti, infatti, siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede. Infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna. Tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù. Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.